Allora, innanzitutto io in qualità di coorganizzatore insieme ad Angela Longo di questa giornata, e siccome sono l'ultimo a parlare, vorrei veramente di cuore ringraziare, sono rimasti solo loro, adesso gli amici francesi, perché Taormina è andata prima e è dovuta partire, vorrei veramente ringraziare di cuore gli amici francesi e francofoni che hanno così partecipato a questo incontro, sopportandosi il viaggio, lo spostamento, eccetera, per cui li ringrazio tutti e credo di interpretare i sentimenti della mia collega Angela e di tutti coloro che hanno partecipato a questa giornata. Quindi veramente un grazie di cuore per il vostro contributo e per la prova d'amicizia, in senso proprio platonico, amicizia della verità che avete dato. Detto questo, io non rettifico il titolo del mio intervento, anche se effettivamente di azione e contemplazione parlerò soltanto nelle ultime battute del mio intervento. Non lo rettifico perché quello che voglio fare è sostanzialmente porre il quadro metafisico nel quale la questione del rapporto tra azione e contemplazione si può porre. E magari nel corso della mia relazione traduco qualche linea, insomma faccio del mio intervento in francese per aiutare la comprensione, insomma, anche dei non parlanti italiani. Da dove partire? Prendo le mosse, inizio dalla domanda che si trova in Plotino, secondo la numerazione tradizionale, quinta Enneade 4, primo paragrafo, la domanda che chiede pos un apo tu proto, che tradotta è come può esserci il secondo dopo il primo, comment peut-être le deuxième après le premier, c'est-à-dire, cioè come può l'idea essere causa, come può l'idea essere aitia, essere causa, come può l'idea, questa è la domanda, no? Come può l'idea essere causa del sensibile? Questa è la domanda che apre il trattato e noi conosciamo la risposta platonica a questa domanda. La risposta platonica a questa domanda, la risposta che Platon ha donné a cette question, c'est très connu, c'est la metaphysis, cioè la dottrina della partecipazione. È la risposta di Platone, della teoria delle idee platoniche alla domanda come può il secondo, l'altro, eteron, venire a po tu proto, dopo il primo. Conosciamo però anche l'obiezione che è stata mossa, no? A questa soluzione, no? L'obiezione che ha été posée a cette solution platonicienne, c'est-à-dire l'argomento del terzo uomo, l'argomento del troisième homme, che ha detto l'obiezione. E chi ha posto questa obiezione è stata posta ancora una volta da Platone. È Platone nel Parmenide che obietta a Platone, teorico delle idee, la soluzione metaphysis. Quindi il senso complessivo delle obiezioni mosse da Parmenide, dal Parmenide platonico, dal Parmenide che parla per bocca, insomma, da Platone che parla per bocca di Parmenide, il senso complessivo dell'obiezione platonica a Platone è molto semplice: come può l'idea essere causa, come l'idea peut-elle être cause sans cesser d'être idée en tant que cause. Come può l'idea essere causa senza smettere, per il semplice fatto che è causa, di essere idea, cioè eterna, immobile, identica, se causa. E la cosa che mi ha sempre colpito è che nel dialogo in questione il vecchio Parmenide, cioè Platone, dice: o risolvete questo problema, oppure, caro Socrate, non sarai mai un filosofo. Cioè, perché la filosofia inizi, perché la filosofia cominci, dice Platone nel Parmenide, bisogna risolvere il problema della causalità metafisica. Come può l'idea essere causa? Altrimenti la filosofia non inizia. Allora, adesso apriamo il corso su Plotino, no? Il corso su Plotino di cui abbiamo lungamente parlato, del 1898-1899. E chiediamo a Bergson qual è la grande originalité de Platon selon Bergson, e la risposta di Bergson è semplice. Lui dice: Plotino dépasse, supera le dualisme platonicien, il dualismo platonico, supera il dualismo platonico della teoria delle idee, e siccome supera il dualismo platonico della teoria delle idee, risponde all'obiezione di Parmenide, risponde alla domanda di Parmenide: come può l'idea essere causa? Plotin veut s'affranchir du dualisme latent chez ses prédécesseurs. E i suoi predecessori, in questo caso, sono anche i filosofi neoplatonici, no? Dai quali si affranca Plotino stesso, secondo Bergson. Plotin veut dériver l'un des mondes de l'autre. Il veut passer de l'eidos o logos d'un us o psiche. E Bergson. E sappiamo qual è l'uso che fa Bergson di Plotino. L'uso che fa Bergson di Plotino è quello, non mi viene in mente la parola francese, però mi ricordo che era la traduzione corretta, di lente di ingrandimento. La lentiglia può guardare. La loop. La loop. Usa Bergson, usa Plotino come un loop. Un loop per vedere che cosa? Per vedere la causalità metafisica. Pour faire sortir la causalité métaphysique. Allora, riprendiamo la domanda da cui siamo partiti. Pos un apo tu proto. Come può il mondo, le cose, il molteplice, le multiple derivare da lui? Per descrivere la derivazione, Plotino, lo sappiamo tutti, riprende le immagini filoniane, di Filone, della irradiazione e della emanazione, no? È la descrizione che fa Plotino. Leggiamo il passo in cui Plotino presenta questa questione. La domanda è: come dunque il primo perfettissimo bene, to teleotaton kai to proton agazon, il primo e perfettissimo bene, come può, come potrebbe starsene infecondo in se stesso, come fosse avaro di sé, impotente, lui che è panton dynamis, che è la potenza di tutte le cose? Se è la potenza di tutte le cose, perché se ne dovrebbe stare infecondo, no? Non generante qualche cosa? E come potrebbe essere ancora principio? Arché, certamente, continua Plotino, anche da lui deve nascere qualcosa, Genestrai, no? Deve generarsi qualcosa. Se qualcosa d'altro deve esistere, poiché tutte le altre cose derivano da lui, e che derivino da lui è ananche, è necessità. Ecco, allora in questo passo sono dette molte cose. Viene ribadito che Dio non è Dio in principio, to teleotaton kai to proton agathon, non è geloso, non è avaro, ed è una questione classica che attraversa tutta la storia della filosofia, da Platone ad Aristotele a Plotino. La filosofia è possibile se Dio non è geloso, perché se fosse geloso non sarebbe possibile la filosofia, e la filosofia sarebbe ibris, sarebbe una trasgressione del posto occupato dal filosofo. Poi viene detto: ogni essere vivente giunto alla maturità, ogni essere vivente maturo, produce, genera. E poi viene detto un'altra cosa: genera qualcosa d'altro, è fecondo, no? Viene detto che queste tre caratteristiche, dunamis, dunamis pantum, no? Pantum dunamis, essere la potenza di tutte le cose, e essere il principio di tutte le cose, e essere la genesis, no? Il principio della generazione di tutte le cose, non sono predicati del primo, no? Non sono qualcosa che si aggiunge al primo. Dynamis, archè e genesis sono l'atto, l'attività del primo. Cioè, se il primo è bene in quanto è panton, dynamis, in quanto è genesai e in quanto è archè. Ma in quanto cioè è causa. Il primo è causa, è aitia. Allora, la domanda è: il primo perfettissimo bene, to teleota ton kaito proton agazon, è causa, certamente, aitia, ma che tipo di causa? Quale causa è? E Bergson, nel corso in questione, spiega come Platone, il Platone della teoria delle idee, non avesse spiegato questo tipo di causalità. Cioè, per spiegare questo tipo di causalità, Platone, dice Plotino, si affida al mito, usa il mito. Cioè, Platone spiega bene come dai molti si arriva all'uno, lo spiega, è la dialettica, no? Quindi spiega molto bene quella che, secondo la terminologia degli alessandrini, è l'epistrofe, cioè dai molti all'uno, con la dialettica, ma non spiega la prodos, non spiega il processio, non spiega il processo. Lì usa il mito. E allora qui interviene Plotino, abbiamo una lente di ingrandimento. Plotino è colui che ci ha spiegato, dice Bergson, com'è possibile il processo. E ce l'ha spiegato razionalmente. Processo a poco proprio verso i molti. Quindi emanazione, irradiazione, non sono, dice Bergson, la solution d'un problème. È l'énoncé. L'emanazione, l'irradiazione non sono la soluzione, sono l'enunciato, dice Bergson, del problema. È la se, c'est la simple constatation de la nécessité pour les choses multiples de sortir des idées sans que les idées les sortent d'elles-mêmes. Allora, voilà l'enunciato del problema. L'énoncé du problème, c'est ça. C'est-à-dire, come possono le cose multiple, les choses multiples, dériver des idées sans que les idées sortent d'elles-mêmes. Et c'est Bergson qui parle, c'est une citation. Come, insomma, tenere insieme la separazione ontologica, cioè quello che si chiama tecnicamente il corismos, no? La separazione tra mondo sensibile e mondo intelligibile, la separazione della causa rispetto all'effetto, come tenere insieme la separazione della causa con l'immanenza della causa, come tenere insieme la causa separata e la causa immanente, come può cioè l'usia intelligibile, l'idea, la causa intelligibile, come può l'usia intelligibile rimanere in se stessa, rimanere indivisa, e al tempo stesso rimane indivisa e si comunica a tutto, è onnipresente in ogni cosa. In altre parole, la questione è: com'è possibile il processo, la prodos? Com'è possibile il dividersi? È una cosa che abbiamo discusso ieri, no? Com'è possibile il dividersi, il differenziarsi di un indivisibile che, dividendosi, resta indivisibile? Tale è la natura del processo. Il processo è una totalità aperta, il processo è un tutto aperto. Tutto aperto vuol dire che non è fatto di partes extra partes, non è fatto di elementi che si compongono. Il processo non è un composto, ma è un atto semplice, indivisibile, un atto semplice e indivisibile che si fa, che è quello che è, attraverso una moltiplicazione di parti, che si fa attraverso una moltiplicazione nello spazio e nel tempo, una moltiplicazione paradossale, perché lo lascia indiviso, semplice e fuori dallo spazio e dal tempo. La soluzione che, secondo Bergson, Plotino ha dato al problema della causalità metafisica è la cosiddetta, sono parole di Bergson, causalità unilaterale, causalité unilaterale. Che cos'è la causalità unilaterale di cui parla Bergson per Plotino? È una causalità sui generis. È una causalità che non è né semplice causalità meccanica, né semplice causalità finale, né combinazione tra causalità efficiente e causalità finale. È una, dirà più tardi Bergson, une troisième conception de la causalité, una terza concezione della causalità, troisième conception de la causalité, che è la causalité métaphysique, della metafisica, secondo Bergson, e dice Bergson, cito dall'evoluzione creatrice, questa terza concezione della causalità che emerge nell'opera di Plotino come causalità unilaterale è, scrive Bergson, la seule qui fera nous comprendre non seulement pourquoi, in quel sens les choses se meuvent dans l'espace et dans le temps, mais, e questo è veramente incredibile, aussi pourquoi il y a de l'espace et du temps, pourquoi du mouvement, pourquoi des choses. Quindi che ci farà spiegare non solo perché le cose si muovono nello spazio e nel tempo, ma perché c'è il tempo e lo spazio. Cioè questa causalità è la causalità del tempo e dello spazio. Quindi come lente di ingrandimento, come loop per far emergere questa causalità, Bergson usa la psicologia di Plotino, usa la teoria dell'anima di Plotino. E qui è chiaro che c'è un, potete immaginarvi, siamo nel 1898-99, Bergson ha già scritto il saggio sui dati immediati della coscienza. Qual era la novità del saggio sui dati immediati della coscienza? Usare la psicologia come chiave d'accesso per l'ontologia, no? La psicologia era veramente la chiave, no? La teoria della coscienza, per arrivare a capire cos'è la durata. Beh, secondo Bergson, Plotino ha fatto esattamente questo, ha usato la psicologia, come si diceva prima, per produrre l'ontologia. Ora, l'anima, infatti, ha questa caratteristica, dice Bergson parlando di Plotino, l'anima di Plotino ha questa caratteristica, è divisibile ed è assolutamente una. È al tempo stesso divisible e absolument une, à la fois une et multiple, à la fois infiniment mobile et dispersé dans l'espace et dans le temps, et en même temps absolument immuable en dehors de l'espace et du temps. L'anima, cioè, viene presentata da Plotino, da Bergson, nel corso dell'89-90 come processo. L'anima è il processo. E dunque essa destinata a risolvere il problema platonico. Il problema platonico è come può l'idea causare il mondo sensibile senza compromettere la propria indivisibilità. Quindi viene introdotta per spiegare il processo. Allora, infatti, alla domanda che cos'è un essere vivente, che è quella che ha ispirato il nostro colloquio, no? Quando ci siamo incontrati anche con Angela abbiamo detto che in fin dei conti era intorno a questa domanda che volevamo costruire il nostro colloquio. E la risposta di Plotino, secondo Bergson, è molto chiara. Un essere vivente è la manifestazione di un logos. Questo è un essere vivente, dice Bergson. Vale a dire, il logos, e fa questa precisazione che è molto bella, dice: il logos non è l'idea, ma l'idea divenuta forza. Cioè, un vivente in quanto manifestazione del logos, in quanto idea che è divenuta forza, è classificata da Bergson sotto lo schema del effort. Un essere vivente è un effort. È quell'effort che lui studierà nel 1911 quando presenterà le schéma dynamique dell'effort intellectuel. È, altra parola che usa Plotino per introdurre che cos'è un essere vivente, scusate, altra parola che usa Bergson per introdurre la nozione di essere vivente in Plotino è la parola lavoro, travail. Un essere vivente è lavoro, sforzo, cioè lavoro, e l'anima è processo in quanto forza al lavoro. E in quanto, e chiaramente questo lavoro che è l'anima vivente non va inteso, tecnicamente si potrebbe dire, non va inteso poeticamente, cioè non va inteso come un lavoro che deve producere, che deve produrre qualcosa d'altro. Il lavoro dell'anima è il lavoro di autoproduzione dell'anima stessa. L'anima si autoproduce col suo lavoro. Quindi siamo vicini alla nozione aristotelica di praxis nella sua distinzione dalla nozione di poiesis. Ora, se consideriamo questo schema, notiamo questo schema che associa l'anima plotinica al lavoro intellettuale, allo sforzo intellettuale, notiamo che l'idea, l'anima è la manifestazione di un logos, il logos è idea al lavoro, l'idea vi funziona come un causa, come causa, ma come causa che è al tempo stesso radicalmente separata, cioè non è nulla di ciò che è dato, e rigorosamente immanente al tempo stesso. Ora, la teoria platonica, plotinica, la teoria plotinica dell'anima, secondo Bergson, è la chiave d'accesso all'ontologia. E perché la chiave d'accesso all'ontologia? Perché la causalità messa in gioco dall'anima, il tipo di causalità che noi ritroviamo a livello dell'anima, agisce a ogni livello nell'essere, dall'uno fino alle forme sensibili. Tutto replica questa struttura della causalità dell'anima. Cioè l'anima offre il modello, il paradigma della causalità metafisica. Allora, ci sarebbe tanto altro da dire su questa teoria bergsoniano-plotinica dell'anima. Altre cose che sono straordinarie dal punto, almeno secondo me, quando le leggo mi colpiscono moltissimo, perché, e che non posso affrontare in questa sede, però le accenno soltanto, e se si segue, sono state dette molto bene nell'intervento, tra l'altro anche nell'intervento di stamani di Sylvain, sono state riprese anche da altri interventi, che naturalmente se si segue questa teoria dell'anima, l'anima non è coscienza. Evidentemente l'anima non, la coscienza è accessoria. La coscienza accompagna, la coscienza segue, l'anima è inconscia. Anzi, la coscienza è connessa a una caduta, una déchéance dell'anima fuori di sé. Non è un dato immediato. Quindi il pensiero è esteriore alla coscienza che pensa. Dice Bergson nel corso che era stato citato nell'intervento nell'intervento di stamane, è il corso del 1903-1904, quello citato da Sylvain Roux, il corso sulla storia delle teorie della memoria. C'è questo passo di Bergson, Bergson dice: il pensiero vero è qualcosa di più alto del pensiero cosciente, è pensiero non cosciente. E questa è una conseguenza, no, della teoria della causalità che viene fuori. Allora, perché la causalità che Bergson fa emergere usando Plotino come loop, come lente di ingrandimento, no? Perché questa causalità è detta unilaterale? Detta da Bergson, unilaterale. È detta da un unilaterale perché, guardate, secondo questo schema della causalità, che è la causalità dell'essere, secondo Plotino, l'effetto, c'è causalità, c'è un rapporto di causa-effetto, no? L'effetto è in rapporto con la causa, cioè il generato è generato da qualche cosa, l'effetto accompagna la causa, paracoluzema, accompagnamento, è una parola che torna spesso nella lingua di Plotino per indicare proprio il problema della causalità, cioè la coscienza accompagna l'anima, non è che la, il rapporto che esiste tra anima e coscienza è un rapporto di accompagnamento. Allora, dicevo, perché è detta unilaterale questa causalità? Perché l'effetto è in rapporto con la causa, il generato nasce da, ma l'accompagna, ma non vale, di nuovo sono le parole di Bergson, non vale l'inverso, la causa non è in rapporto con l'effetto. La causa non partecipa in alcun modo e in alcun grado della molteplicità che genera. Ecco la causalità unilaterale che secondo Bergson agisce nel testo di Plotino. L'effetto in rapporto con la causa, ma la causa che genera l'effetto non ha nessun rapporto con l'effetto. La causa, cioè, è fuori dal tempo-spazio, l'effetto è nel tempo e nello spazio, ma bisognerebbe anche aggiungere, non solo la causa è fuori dal tempo e dallo spazio, ma l'effetto di una causa che è fuori dal tempo e dallo spazio è il tempo e lo spazio. Il tempo e lo spazio sono generati da una causa non temporale e non spaziale. C'è causa per l'effetto, evidentemente c'è causa per l'effetto, ma non c'è effetto per la causa. Questa è la causalità unilaterale. C'è causa per l'effetto, cioè se io dal punto di vista dell'effetto vedo la causa, ma non c'è causa per l'effetto. Cioè potremmo dire Dio è causa in rapporto a noi, cioè noi vediamo Dio causa, ma Dio non è causa in rapporto a se stesso. E lo schema della causalità unilaterale che Bergson fa emergere è quindi riassumibile in questi tre passaggi. Chiamo A la causa e chiamo B l'effetto. A implica B, la causa implica l'effetto, evidentemente. Dio implica il mondo, per dire. Ma attenzione, questo è il primo momento. Secondo momento, c'è una differenza di natura tra la causa e l'effetto. Tecnicamente si dovrebbe dire, il rapporto tra causa ed effetto è un rapporto di omonimia. Causa ed effetto sono omonimi, non hanno genere comune. Quindi A implica B, ma A è differente per natura da B. Qual è la conclusione di questo sillogismo? Conclusione che ha del miracoloso, effettivamente. A implica B, A differisce da B per natura. La differenza per natura di A e di B è il fondamento della implicazione. Cioè la causa della implicazione è la differenza di natura degli implicati. Bergson dice, voilà, la causalità metafisica. Nous l'avons sous les yeux. Ecco come funziona la metafisica. La causalità metafisica, la causalità unilaterale di cui parla Bergson, viene metaforizzata da Bergson, cioè viene prodotta un'immagine di questa causa metafisica da Bergson, con quello che Bergson chiama le principes de la monnaie, il principio della moneta. Le principes de la monnaie è una formulazione bergsoniana che emerge come tale e attraversa un po' tutta l'opera di Bergson, ma emerge come tale in una sua riflessione su Spinoza, eccetera, ma adesso non entriamo nel dettaglio. In che cosa consiste le principes de la monnaie? Le principes de la monnaie, il principio della moneta, è la causalité unilaterale. Allora, che cos'è le principes de la monnaie secondo Bergson? Lo possiamo enunciare in questi termini, che sono termini bergsoniani. Questo è le principes de la monnaie o causalité unilaterale. Se, cito Bergson e l'evoluzione creatrice, le rapport de la pièce d'or à sa monnaie. Pourvu qu'on suppose la monnaie s'offrant automatiquement dès que la pièce d'or est présentée. Ça, c'est la causalité unilatérale. Le rapport de la pièce d'or avec la monnaie. Ma attenzione, posto che si supponga, pourvu qu'on suppose che la moneta si offra automaticamente, che si offra automaticamente desche dal momento che nello stesso istante in cui la pièce d'or si presenta. Questa concezione della causalità traspare secondo Bergson sempre di più man mano che da Platone si va a Plotino. E può essere così formulata, la formulo in un altro modo, che è il modo, diciamo, in cui Bergson la presenta nell'evoluzione creatrice. Questo è le principes de la monnaie, la causalité unilaterale, che lui trae da Plotino. La position d'une réalité implique la position simultanée de tous les degrés des réalités intermédiaires entre elle et les tournées. Ecco, nella lettura di questo passo, in italiano suona: la posizione di una realtà implica la posizione simultanea di tutti i gradi di realtà intermediari tra questa realtà che viene posta e il puro niente. Ecco, nella lettura di questo brano bisogna porre molta attenzione, secondo me, a quel pur néant evocato da Bergson come una sorta di degré zero du réel, perché vedremo che lì si attaccherà il possibile renversement du plotinisme, il possibile rovesciamento del plotinismo che c'è effettivamente in Bergson. Allora, però, torniamo alla causalità unilaterale. Insomma, mi pare che sia abbastanza chiara come funzione. Dato l'uno, essendo dato l'uno con la U maiuscola, essendo dato ciò che noi possiamo metaforizzare con la pièce d'or è l'oro, essendo dato l'uno, essendo dato la pièce d'or, potremmo dire con un esempio non innocente, essendo data la circonferenza come limite massimo di tutti i poligoni che si possono iscrivere all'interno della circonferenza. L'uno, la pièce d'or, la circonferenza come limite massimo di tutti i poligoni, quanti? Lo sapete, infiniti poligoni, che possiamo inscrivere dentro la circonferenza. Dato l'uno, dice Bergson, è dato con esso, e lui usa proprio l'espressione automatiquement, sauf automatiquement. Quindi non c'è, capite, c'è proprio, come dire, passaggio automatico. Sauf automatiquement, che cosa soffre? Dato l'uno, i monti. Dato la pièce d'or, la moneta. La moneta sarebbe la moneta spicciola, no? Siamo in un'economia monetaria prima della svolta del 72, cioè di Nixon, in cui l'oro è il fondamento dell'economia monetaria, no? Dato l'oro, allora abbiamo la moneta. Dato l'uno, abbiamo i molti. Data la circonferenza come limite massimo di tutti i poligoni che sono iscritti nella circonferenza, abbiamo l'infinito dei poligoni della circonferenza. L'esempio non è innocente, perché è tratto da Niccolò Cusano, ed è un neoplatonico che deve ovviamente molto a Plotino. Ma quindi se questo automatiquement cosa vuol dire? Vuol dire che secondo il principio della moneta, cioè secondo la causalità unilaterale che viene individuata da Bergson come la radice della causalità metafisica, noi dobbiamo supporre evidentemente la conferma, la causalità unilaterale ci obbliga a confermare quelli che sono i tre grandi principi della metafisica classica, vale a dire il principio di pienezza, il principio di continuità e il principio di indiscernibilità. Perché cosa vuol dire? Se io dico dato l'uno, tutto, i molti sono dati insieme a lui. Beh, sto dicendo che ogni posto nella grande catena degli esseri deve essere occupato. Tutto il possibile deve accadere. Non ci sono posti vuoti. Principio di pienezza, principio di continuità, non ci sono posti vuoti, ma anche principio di indiscernibilità, vale a dire non si danno due enti identici. Se ogni posto nella grande catena degli esseri deve essere occupato ed occupato una volta sola, non ci sono posti vuoti nella catena degli esseri. E ogni posto nella catena deve essere occupato una volta sola. Ecco, però, in questo causalità unilaterale, Francis de la Monnaie, resta a far macchia che cosa? Quel pur néant che deve essere supposto perché funzioni questa causalità metafisica. Ora, prima di problematizzare questo punto, io vorrei azzardare quest'ipotesi, che però mi sembra abbastanza fondata, secondo la quale il principio bergsoniano della moneta, cioè la causalità unilaterale di cui parla Bergson a proposito di Plotino, è una formulazione precisa della cosiddetta teoria della doppia attività, del doppio atto, che secondo gli esegeti di Plotino, Plotino avrebbe elaborato per spiegare il rapporto uno-molti, per spiegare il rapporto modello-immagine, cioè per spiegare la prodos, il processo. Ad esempio c'è uno studioso di Plotino, Emerson, che dice che la teoria della doppia attività è il backbone, la spina dorsale della teoria di tutta la filosofia del processo. Questa teoria della doppia attività, di cui abbiamo oggi parlato insieme a Sigmarou, questa teoria della doppia attività è pervasiva, vale a dire che si istanzia a ogni livello. Vale dall'uno fino alle forme sensibili, con eccezione della materia, un'eccezione su cui bisognerebbe riflettere, e costituisce la teoria della doppia attività la soluzione plotinica al problema del dualismo e della causalità metafisica, cioè svolge esattamente quella funzione di soluzione che gli affida Bergson quando parla di causalità unilaterale. Qui ci sarebbero tante cose ovviamente interessantissime da dire e da discutere su questo tema, ma io mi limito a rilevare come, secondo la concezione di Plotino, dall'uno fino alle forme sensibili, noi siamo sempre in presenza di attività, di energie. È la visione, come dire, animata, no? Del cosmo, della natura, della vita che ha Plotino, no? Dall'uno fino ad eccezione della materia, no? Fino lì, quasi lì, fino quasi alla materia, siamo sempre in presenza di energeia, di attività. E cos'è l'energeia? Che cos'è l'energeia? L'energeia si traduce con attività. L'energeia è l'attività. Siamo in presenza di attività. Però questa attività, dice Aristotele, adesso non possiamo entrare, questa attività che è presente a ogni livello dell'essere è in realtà, se seguiamo Plotino, doppia. non è mai una attività, è nel suo stesso esercizio sempre, come dire, two-sided, no? Orientata in due direzioni. Da un lato è, come si diceva oggi, energeia tes usias, dove energeia tes usias vuol dire, da un lato è un'energeia che coincide con l'usia, un'energeia che è l'usia, vale a dire un atto in atto perfettamente compiuto in ogni momento del suo essere atto. Io direi di nuovo, a me viene in mente le praxis di cui parla Aristotele in Metafisica 9, no? E mi chiedo sempre perché per gli studiosi di Plotino questa accostamento con la praxis non viene fatto, no? Quando si parla di questa natura dell'atto, ma comunque questo è insomma questa energeia, diciamo, in prima istanza è atto compiuto, atto che è compiuto in ogni momento del suo essere atto, è un atto sempre compiuto e dunque è intemporale, semplice, in estesa. È un'attività appunto che è compiuta nel suo stesso essere. Però dall'altro, accanto all'energeia tes usias, accanto all'energeia che coincide con l'usia stessa, abbiamo l'energeia ek usias. Abbiamo un'energeia apo tes usias. E in questo caso abbiamo un'attività che consegue a quell'altra energia. Un'attività che segue dalla prima energia, un'usia che, come dire, dipende e accompagna in una relazione di implicazione necessaria la prima usia. E questa è invece un'energia che non è compiuta in ogni momento del suo atto. Questa è un'energia ateles, è un'energia incompiuta. È un'attività che non ha il suo fine in se stessa, ma che è rivolta ad altro, raggiunto il quale sarà cessata come attività. E queste attività sono temporali, estese, composte. Ora, doppia attività non significa due atti, ma un solo esercizio. Un solo esercizio tra due atti che sono tra di loro in una relazione di implicazione necessaria. A implica B, l'attività A implica l'attività B, e al tempo stesso anche di differenza di natura. I due atti sono omonimi l'uno con l'altro. L'oro e la moneta. L'atto oro e la molteplicità moneta, che si offre automaticamente una volta che l'oro è dato. Dunque, secondo la teoria della doppia attività, l'usia intellegibile, la sostanza intellegibile e la sostanza sensibile sono in una relazione di omonimia, ma al tempo stesso l'usia intellegibile è causa dell'usia sensibile, la implica. Ma la implica proprio grazie alla sua separatezza. L'implicazione, la causa dell'implicazione è l'omonimia tra le due attività. La differenza di natura è condizione della implicazione necessaria. E quindi potremmo dire che solo Plotino sviluppa questa differenza tra mondo sensibile e mondo intellegibile, traendone la conseguenza più rigorosa, cioè che l'essenza intellegibile, in virtù della sua stessa differenza, agisce come causa immanente. La causa è immanente in ciò che ne dipende, proprio perché è totalmente distinta da essa. Questo è il succo della teoria della doppia attività, cioè della causalità unilaterale di cui parla Platone. Riferita al fenomeno del movimento, la teoria della doppia attività o della causalità unilaterale ha conseguenze che non possono lasciare indifferente lo studioso di Gerson. Per Plotino, ad esempio, non si può confondere il movimento che è enervo ed è perfettamente compiuto. Non si può confondere il movimento, ad esempio il camminare, basidis, no? il camminare, con il percorso per raggiungere la meta del cammino. In base alla teoria delle doppie attività dobbiamo distinguere il camminare come atto dal camminare pensato a partire dal tragitto, dal percorso. Esatto. Questo un lettore rimane, quando si leggono queste pagine, dice: beh, effettivamente Bergson poteva trovare qui una sorta di conferma, no? della sua teoria, secondo la quale non si può ricostruire il movimento con una somma di arresti. Ma tralasciamo, per tornare al principio della moneta, al principio della causalità unilaterale, e concludiamo dicendo che, facendo riferimento a quel pur neon che compariva nella definizione della causalità metafisica. La formula era: data una realtà, noi dobbiamo porre tutti i gradi che esistono tra questa realtà e il puro nulla, dato l'oro, dobbiamo immaginare un'infinità potenziale di moneta che deve corrispondere, no? A quest'oro, chiaramente fino al puro nulla, cioè partendo dal presupposto che c'è comunque una differenza ultima costituita dal pur neon. L'affondo critico di Bergson alla causalità metafisica che ha fatto emergere attraverso il suo esame di Plotino si basa su quel puro nulla, su quel pur neon. Nella causalità metafisica, perché cosa dice Bergson? Bergson dice che senza il contatto con quel puro niente, senza postulare quel puro niente, il processo, cioè la causalità metafisica, il passaggio dall'uno ai molti, non parte. Manca il motore del processo. È come se dicessi in qualche modo: è solo nell'orizzonte del nulla, della presupposizione del nulla, che risplende l'oro, che fonda la molteplicità. Senza quel nulla la metafisica non mette in moto il suo motore. L'essere della metafisica, ed è un'intuizione geniale di Bergson, l'essere è sempre correlato al nulla. È sempre, senza questa correlazione originaria al nulla non c'è essere. La causalità metafisica, cioè la causalità unilaterale, cioè la teoria della doppia attività, funziona se e solo se accanto all'uno, e queste sono parole di Bergson, se accanto a quotidiano si pone un principio ugualmente coeterno, un principe del quale, dice, è appena possibile dare questo nome, perché non è niente di negativo, non è niente di positivo, anzi è qualcosa di negativo. Qual è questo principio che fa funzionare la causalità metafisica? L'ineffabile nulla, che deve essere silenziosamente introdotto, dice Bergson, nell'evoluzione creatrice, nel mondo delle idee, e avervi creato, e deve creare nel mondo delle idee l'éternelle inquiétude con un soupçon insinué entre deux cœurs qui s'aiment. Senza questo sospetto non funziona la causalità metafisica, se non c'è il nulla a muoverla, no? A metterla in moto. Cosa fa allora Bergson usando come lente di ingrandimento Plotino per scoprire come funziona la metafisica? Rovescia Plotino? Punto di domanda. Ecco, qui sono molto d'accordo con le cose che diceva Friedrich prima, insomma, bisogna essere molto cauti su questo punto. Io direi non che rovescia Plotino. Scopre come funziona la metafisica, causalità unilaterale, teoria della doppia attività, e scopre che non ci sarebbe teoria della doppia attività se non ci fosse il nulla, e che quindi in qualche modo è il nulla a mettere in moto la causalità metafisica. A questo punto cosa fa? Rovescia Plotino, Io direi che piuttosto procede a una revisione della causalità unilaterale, a una revisione della teoria della doppia attività, a una revisione del principio della moneta, che non è un rovesciamento. Infatti, che cosa fa Bergson? Beh, compie sostanzialmente due mosse e trae una conclusione. Bergson pone il principio della moneta, cioè della causalità unilaterale, cioè del rapporto oro-moneta, quindi in un certo senso la teoria della doppia attività, pone il principio della moneta al cuore della propria metafisica della durata creatrice. Perché dico che pone il principio della moneta al cuore della propria metafisica? Basta prendere l'introduzione alla metafisica. Se noi prendiamo l'introduzione alla metafisica, noi troviamo nelle prime righe dell'introduzione alla metafisica una replica della teoria della doppia attività. Leggiamo: che cos'è un assoluto? Vu de dedans, un absolu est donc chose simple. Mais envisagé de dehors, c'est-à-dire relativement à autre chose, il devient par rapport au signe qu'il exprime la pièce d'or dont n'aura jamais fini de rendre la monnaie. Cioè, l'assoluto della metafisica della durata creatrice è la pièce d'or, è l'uno. E è un assoluto che funziona, come vedete, su due doppie attività, no? Visto dal di dentro è cosa semplice, visto dal di fuori è infinitamente divisibile. È veramente la doppia attività plotiniana riportata nel cuore dell'assoluto di Bergson. Ma questa è la prima operazione. La seconda qual è? Che è fondamentale. Elimina il nulla come orizzonte di comprensione del senso dell'essere. Cioè riprende la teoria della doppia attività, ma elimina il nulla, le néant, come, e fa un'operazione, guardate, che secondo me è un'operazione rivoluzionaria, perché nella metafisica del Novecento, se c'è una sorta di dogma su cui tutto giurano, da Heidegger a Sartre alla fenomenologia a tutto il sistema sì, tutto, e qual è? Il nulla è l'orizzonte della comprensione del senso dell'essere. E qui invece l'operazione che fa Bergson è riprendere la causalità metafisica, ma appunto, come diceva prima Friedrich, no? Revisionandola. E questa revisione è: io elimino il nulla come fondamento. Ne consegue che cosa? Ne consegue per l'assoluto, perché stiamo parlando dell'assoluto, che cos'è l'assoluto? È ciò che è semplice e divisibile al tempo stesso, è uno e divisibile al tempo stesso, è processo. Ne consegue per l'assoluto un nuovo statuto che io definirei uno statuto interamente spinoziano. Perché dico uno statuto interamente spinoziano? Perché significa interamente positivo, interamente affermativo, non viziato da negatività alcuna. L'assoluto, dice Bergson, è infinito. E qui magari so che tocco un punto su cui abbiamo discusso tante volte con Arnaud e con Frédéric, ma l'idea che qui dell'assoluto viene posta è come quello di un infinito two-sided, cioè un infinito che è in atto, e proprio perché è in atto, moneta d'oro, è anche infinito privativo, infinito potenziale, la moneta. E infatti dice Bergson, non sono io, Bergson, cosa dice dell'assoluto Bergson nell'introduzione alla metafisica? Dice che l'assoluto è se qui si prend en même temps, la doppia attività, non nello stesso tempo, automaticamente, se qui si prend en même temps a une appréhension indivisible e a une énumération inesauribile. La doppia attività, i due infiniti, in atto e potenziale. È come se qui Bergson dicesse: c'è veramente solo Dio, e essendoci Dio c'è il mondo. Che cos'è che salta? Salta il nulla, cioè salta l'idea che il passaggio dal principio al principiato, dall'uno ai molti, fosse un passaggio che avesse il senso della decadenza, del venir meno di qualche cosa. La moneta è ora immediatamente, l'oro è ora immediatamente la moneta. Non essendoci più nulla, non c'è più déchéance, non c'è più degradazione. Dato l'uno, i molti. Immediatamente, qui l'identità è identità immediata dell'infinito in atto con l'infinito in potenza. Deus sive natura. Allora, è la grande tesi, se volete, dell'univocità dell'essere, che viene ripresa da Deleuze proprio lavorando su questa questione. Allora, a questo punto, cosa c'entra questo col titolo della mia relazione? C'entra in questo senso, e mi ricollego proprio alle cose che diceva Frederica alla fine della sua relazione. Per la teoria della doppia attività plotinica, ogni essere vivente è energia, ma energia cosa vuol dire? È contemplazione e derivatamente azione. Cioè, ogni essere vivente è contemplazione e segue dal suo essere contemplazione quell'indebolimento che è rappresentato dall'azione. Per la teoria della doppia attività revisionata di Bergson, ogni essere vivente è contemplazione, ma la contemplazione è immediatamente azione. Non c'è déchéance, non c'è decadenza, no? La contemplazione è immediatamente azione. Cioè, se revisionando la teoria della doppia attività e rileggendo in questo modo la teoria della causalità unilaterale, noi possiamo dire che per Bergson ogni azione è contemplazione. Mentre per Plotino c'era la contemplazione e poi l'azione indebolita, no? In mezzo c'è nulla, tolgo il nulla, ogni azione è immediatamente contemplazione. E quindi potremmo dire, come dicono del resto Whitehead e Deleuze, no? Che Deleuze che riprende Whitehead su questo punto, che per, alla luce di questa revisione della teoria della doppia attività, per Bergson ogni vivente, ogni energia, per il solo fatto di vivere, canta, e qui cito proprio un passo di Deleuze che riprende Whitehead, ogni vivente per il solo fatto di vivere, cioè per il solo fatto di agire, canta, e si parlava dell'evangelico Giglio dei Campi, la gloria stessa di Dio. Mi fermo.